Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, siamo a pochi giorni dal Natale, non potevamo che dedicare questa puntata di Economia in pagina ad un libro dedicato al tema del Natale, al tema della famiglia, nell'ottica però propria dell'economia, della realtà sociale. Lo facciamo parlando di un libro, si intitola Famiglia e Lavoro, un libro di Vera e Stefano Zamagni. Buonasera professoressa Zamagni. Buonasera a lei. E buonasera a Stefano Zamagni. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Stefano Zamagni è professore di economia all'Università di Bologna e Vera Negri Zamagni è professoressa di storia economica nella stessa Università di Bologna. Come avrete capito, sono marito e moglie ed hanno scritto questo libro, Famiglia e Lavoro, Posizione o Armonia, edito dalle Edizioni San Paolo. Allora, il tema della famiglia è un tema centrale per la società e chiederei proprio alla signora Zamagni, alla professoressa Zamagni, dalla sua ottica di storico, come si è creato questo problema della famiglia nella società attuale, una risorsa che è diventata un problema. Professoressa Zamagni. Ma non solo è diventato un problema la famiglia, ma anche il lavoro, devo dire, quest'oggi, in questa situazione storica in cui ci troviamo. E particolarmente il legame fra i due, no? Ma cominciamo un attimo dalla famiglia. Nella storia la famiglia era sempre stata legata strettamente al lavoro, perché, la parola stessa economia lo dice, il governo della casa, perché era un lavoro fatto in casa o nei campi vicini alla casa. Mentre invece quando con la rivoluzione industriale il lavoro è andato fuori dalla casa, lì si è generato una reazione immediata di separazione fra lavoro e famiglia, su cui ancora oggi dobbiamo lavorare, con implicazioni assolutamente negative, soprattutto per l'armonia fra i coniugi, perché il marito fuori al lavoro, la donna in casa ad occuparsi della famiglia, come dire, si era poi generata anche una grande distanza fra di loro. Ecco, quindi è mancata una politica per la famiglia. Professor Stefano Zamagni, questa politica per la famiglia come dovrebbe essere orientata in una fase come l'attuale, una fase purtroppo di crisi, anche per cercare di affrontare questa crisi economica? Professor Zamagni. Se noi partiamo dalla considerazione, che non è un assunto perché è dimostrabile, che la famiglia è la primaria agenzia educativa, non l'unica, perché c'è anche la scuola e altre, ma è la primaria agenzia educativa. Secondo, che la famiglia è il principale produttore di capitale sociale, cioè delle reti di fiducia, senza delle quali non ci può essere sviluppo, soprattutto in un'economia di mercato, allora la conclusione è che l'assetto istituzionale formato di leggi, regolamenti e tradizioni deve cambiare, perché il nostro disegno e assetto istituzionale è ancora quello del passato, di un passato di una società cosiddetta fordista, taylorista, che oggi non c'è più, è in crisi irreversibile, ma che è ancora basato sulla tesi della separazione, come diceva Vera poc'anzi, tra i luoghi di lavoro e i luoghi di vita familiare. Dobbiamo andare verso la complementarietà e allora bisogna cambiare diverse leggi sul mercato del lavoro. Secondo, bisogna cambiare il modo con cui è concettualizzato il welfare. Noi non possiamo pensare il welfare mirato a dare un sussidio alla donna perché stia a casa a guardare i figli, eccetera, perché questo vuol dire perpetuare un modello di ordine sociale che è devastante da tutti i punti di vista. Terzo, bisogna spingere il mondo dell'impresa ad applicare seriamente la corporate family responsibility, cioè la responsabilità familiare dell'impresa. La responsabilità familiare dell'impresa è oggi una sottospecie del più ampio territorio della responsabilità sociale dell'impresa. Chiedere alle imprese di considerare che la partecipazione al processo lavorativo della donna non è un atto di generosità o di buonismo, ma è un atto che serve a migliorare la performance dell'impresa, è in questo momento storico l'urgenza primaria. Ecco, in Italia ci sono due primati negativi, la minore partecipazione al lavoro delle donne e il tasso di natalità più basso. Professoressa Zamagni, nel libro voi dite che bisogna far lavorare di più le donne creando le condizioni perché questo avvenga, ma anche far tornare un po' più gli uomini a casa, cioè dare anche più spazi perché l'uomo, il padre di famiglia, sia veramente padre di famiglia. Come prospettiva, questa è una prospettiva che può aiutare sia a far lavorare di più le donne sia ad aumentare questo tasso di natalità drammaticamente basso? Sì, io penso che questo sia possibile, però bisogna che anche la cultura delle persone cambi, perché troppo a lungo si era pensato che l'uomo non avesse più un ruolo da svolgere in famiglia, mentre invece adesso noi vediamo che ci sono degli effetti molto negativi dal fatto appunto che non esista più un ruolo da svolgere da parte degli uomini in famiglia, mentre è vero viceversa sul mondo esterno naturalmente ancora troppo spesso le donne pensano di avere in realtà una scelta da compiere, o il lavoro o la famiglia, mentre invece anche questa è un altro aspetto culturale che deve essere cambiata. Devo dire che in tutti i paesi dove questa rivoluzione culturale è avvenuta e anche, come diceva mio marito Stefano, la legislazione è stata cambiata, le cose sono ampiamente migliorate sia dal punto di vista del lavoro delle donne che dal punto di vista appunto della natalità. È un paradosso per la mentalità italiana che dove le donne sono di più al lavoro ci sia anche la possibilità di avere una famiglia un po' più consistente e numerosa, mentre qui in Italia ancora tutti pensano il viceversa. Ecco, questa è appunto l'esperienza degli altri paesi scandinavi, ma anche i paesi molto vicini all'Italia come la Francia, hanno appunto un'esperienza di politiche familiari attive, di sostegni non solo finanziari. In questa prospettiva, professor Zamagni, ci tratta anche di fare delle politiche attive per la famiglia. In Italia se ne parla forse un po', ma si è fatto veramente molto poco, come diceva prima. Qual è la priorità in questo momento, magari pensando proprio ai programmi che stanno presentando i partiti politici in vista delle elezioni, la priorità per la famiglia, professor Zamagni? Lei ha citato opportunamente la Francia. La Francia introdusse il quoziente familiare nel 1945, in tempo ancora di guerra, e da allora non l'ha mai cambiato. In Italia ancora oggi non si riesce a parlare né di quoziente familiare né di fattore famiglia. Questo per dire la distanza. Poi ci meravigliamo del fatto che in Francia il tasso di natalità è di 2.4 e in Italia è 1.3, ma per forza. Secondo appunto, occorre sicuramente rivedere il modo con cui si fanno. Perché non introdurre in Italia la valutazione di impatto familiare? Abbiamo introdotto la valutazione di impatto ambientale ed è una grande conquista. Ogni volta che si fa una legge c'è una commissione che valuta se quella legge danneggia o meno l'ambiente nelle sue diverse determinazioni. Perché non fare la stessa cosa con la famiglia e chiedersi se noi approviamo una certa legge in materia fiscale, in materia di politica industriale, eccetera, questa legge favorirà o no la coesione familiare? La valutazione di impatto familiare, infine, bisogna convincere, o meglio, bisogna fare una leggina che dica all'Istat che la famiglia nei conti della contabilità nazionale non può continuare ad essere vista solamente come soggetto di consumo e non anche di produzione. Se noi guardiamo i conti del PIL, vediamo che chi produce sono le imprese, chi consuma sono le famiglie, il che veramente è a dir poco una idiozia. Basta con questi, diciamo, retaggi pseudoculturali che sono serviti soltanto a ritardare il nostro processo di avanzamento. La famiglia produce, e come si produce? Certo, non produce tutto per il mercato, ma chi l'ha detto che la produzione di valore aggiunto è solo quella che transita per il mercato? E la produzione di capitale sociale forse non è una produzione? Ecco allora perché sarebbe bene che l'Istat cominciasse a rivedere i metodi con cui si calcola il PIL nel nostro paese. Ecco, grazie professor Zamagni. Ecco, per concludere, professoressa Vera Zamagni, lei concludete il vostro saggio dicendo la speranza è che possa servire questo saggio, questo libro, a dare una mano per propiziare i destini della famiglia e del lavoro. In questa prospettiva si tratta sicuramente anche di rivedere il modo di fare le statistiche, ma anche di rivedere soprattutto la posizione culturale di ciascuno, di chi partecipa e vive nella famiglia, di chi vive nelle imprese, una posizione culturale che questo saggio, professoressa Zamagni, può aiutare a mettere nella direzione giusta. Sì, e quello che voglio dire è che una prospettiva, questo cambiamento culturale che si prefigge di arrivare ad una migliore felicità, perché ormai c'è una vasta letteratura sul fatto che non è l'aumento del PIL che aumenta la felicità delle persone, ma la vita buona, no? E la prospettiva di questo libro è appunto di andare in questa direzione, perché sicuramente avere una famiglia che regge, avere un lavoro che, come dire, soddisfa perché i talenti vengono utilizzati, è la base davvero della felicità. Ecco, questo è anche forse l'augurio che facciamo, che possiamo fare nostro, possiamo fare a Vera e Stefano Zamagni. Buon Natale, tra pochi giorni è Natale, un Natale appunto di felicità, un Natale costruttivo, un Natale che sia la festa della famiglia, ma in maniera appunto che la famiglia possa diventare veramente quello che è già un centro della società, ma diventarlo sempre di più e diventarlo in maniera costruttiva. Dopo aver parlato con Vera e Stefano Zamagni di Famiglia e Lavoro, Posizione e Armonia, vi segnalo brevemente un altro libro dedicato alla famiglia, La famiglia, risorsa della società. Sono una serie di saggi curati da Pierpaolo Donati, professore ordinario di sociologia della famiglia all'Università di Bologna e coordinatore organizzativo del Centro Internazionale di Studi per la Famiglia, che è guidato da Francesco Belletti, che è, tra l'altro è uno degli autori di questi saggi. La famiglia nella realtà attuale, nella realtà italiana, con tutte le difficoltà che abbiamo visto poco fa parlando con i coniugi Zamagni, però anche con una prospettiva proprio di carattere sociale, di carattere giuridico, di carattere economico, di carattere appunto con tutti quei fattori che condizionano il viaggio della famiglia nella realtà italiana. A cura di Pierpaolo Donati, il libro è Famiglia, risorsa della società, edito dal Mulino, 352 pagine per 29 euro. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia e Luca Cremonese in redazione. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.